E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Adesso noi parliamo del pomodoro, ma c'è anche la pera. La pera, sì. E il kiwi. E l'albicocca. Che è qua di fianco a me. Ecco. Va bene, adesso i titoli, poi parliamo del pomodoro. Benvenuti a Mebius. Il pomodoro e poi anche la pera. Il loro DNA non ha più segreti. E adesso? La domanda di questa settimana. Quando cade la neve non ci sono mai tuoni e fulmini, come accade nei temporali estivi. Perché? Ma è poi vero? Condividere le antenne per risparmiare energia. Una ricerca italiana spiega come le compagnie telefoniche potrebbero cooperare per ridurre i consumi. Milano come centro nazionale per le start-up. È un progetto della Camera di Commercio come iniziativa per Expo 2015. Eccoci qua. Pomodoro. Dobbiamo parlare del pomodoro, che è stato messo in prima pagina, in copertina, su Nature. Perché il suo DNA è stato finalmente sequenziato. Un grande successo per la scienza e siamo orgogliosi di dire che in quello della pera no, ma in quello del pomodoro c'è tanta ricerca italiana. Quindi siamo andati da uno dei coordinatori di questo consorzio che ha studiato il genoma del pomodoro ed è qui con noi questa sera Luigi Frusciante. Buonasera. Buonasera. Buonasera Frusciante. Ecco, lei lavora Federico II, esatto, di Napoli. Federico II di Napoli, e lei è uno dei fautori di questo grosso traguardo. Ma perché è grosso, scusi? Perché è così importante? Il pomodoro o il sequenziamento? Sicuramente tutte e due. Il pomodoro è fondamentale, ma è fondamentale ed è una specie tipica dell'Italia, se vogliamo. Insomma, è una ortiva che rappresenta, diciamo, una parte importante anche dell'economia e trasformazione dei prodotti. Però noi siamo interessati soprattutto alla sua genetica, al suo miglioramento genetico, e quindi siamo partiti nel 2004, siamo stati tra i primi peraltro a sottoscrivere e a partecipare al consorzio internazionale che si interessava del sequenziamento del genoma, a cui hanno partecipato 14 paesi. E l'Italia è stata in una posizione di leader, perché oltre all'Università di Napoli ha partecipato l'Enea e l'Università di Padova. Dal 2004 è stata un'impresa dura, è stato difficile. Certo, perché le tecnologie del tempo erano abbastanza lente. C'era una tecnologia Sanger, quella che per intenderci ha consentito anche il sequenziamento del genoma dell'uomo, però dopo, negli ultimi anni, con le nuove tecnologie di sequenziamento, i tempi si sono notevolmente raccorciati e soprattutto i costi sono diventati molto accessibili. Inferiori. E poi parliamo, insomma, di una quantità di geni abbastanza consistente. Esatto, sì, sono più o meno 35.000 geni, quindi in pratica il genoma del pomodoro non è molto diverso da noi. Grande. Esatto, sì. Noi siamo più o meno sullo stesso numero di geni, però le basi, diciamo, il pomodoro è 950 milioni di basi, noi siamo più di 3 miliardi di basi. Ah, certo, diciamo. C'è quella differenza. Il genoma lì nostro è più piccolo, insomma, il genoma del pomodoro è più piccolo rispetto a noi. L'evoluzionista Telmo Pievani spesso dice che siamo molto parenti di una banana, eh? Ma anche di un topo e forse ancora di più di un nematode. Ebbene, adesso avete codificato questo genoma, e qual è l'importanza di questa scoperta? Perché l'avete cercato così tanto? Infatti. Allora, il sequenziamento del genoma ci consente di conoscere nei dettagli tutta la mappa dei geni, come abbiamo visto in precedenza, e quindi la possibilità di utilizzarli in maniera mirata soprattutto, e quindi fare programmi di miglioramento genetico che ci consentono di non perdere tempo e soprattutto di utilizzare risorse economiche, non molte risorse economiche, per poterlo fare. Quindi nel nostro caso, per esempio, se abbiamo dei problemi da risolvere per quanto riguarda le resistenze agli stress abiotici, quindi a funghi, batteri, virus, o agli stress abiotici quali possono essere la siccità o le alte temperature, possiamo in qualche modo fare dei programmi mirati che ci consentono di poter ottenere dei risultati in tempi non molto lunghi, come con il breeding tradizionale. Ecco, quando noi parliamo del pomodoro, di che pomodoro parliamo? Non parliamo né del Pachino né del San Marzano, ma di un pomodoro modello? Sì, in questo caso è stata utilizzata una cultivar e contemporaneamente è stato sequenziato anche il genoma di un parentale molto prossimo al pomodoro, che è il Solanum pinnellifolium, da cui il nostro pomodoro coltivato deriva. Quindi il San Marzano, però, o altri, il Pachino o altre varietà, soprattutto altri ecotipi italiani, sono molto molto vicini a questo genoma, quindi di fatto, voglio dire, si possono fare dei confronti che ci consentono di vedere quelle piccole o piccolissime differenze che esistono tra le diverse cultivar di pomodoro. Ma questo vuol dire che se interveniamo su questo modello di pomodoro di base, poi sappiamo anche fare delle cose con gli altri? Assolutamente. Sì, perché il pomodoro fa parte di una grande famiglia botanica che sono le solanacee, quindi le specie vicine al pomodoro, quindi la patata già è stata sequenziata, quindi di fatto, voglio dire, già c'è un'altra specie che è stata sequenziata. È vero, sì. E la vite anche. Sì. Anche la vite, sì. E anche in questi consorzi c'erano ricercatori italiani. E ora la pera anche, una notizia di questi giorni. Sì. Io lancio un appello a chi volesse l'albicocco. Noi qui a Napoli siamo molto interessati all'albicocco e lei sa che la Campania è uno dei maggiori produttori di albicocco, quindi siamo molto... Sì, ma ci serve qui per la trasmissione, non possiamo mandarlo. Senti, Chiara, noi adesso insieme a Luigi Frusciante stiamo dando per scontato che effettivamente si fa della genetica su, per esempio in questo caso, delle solanacee, ma per migliorarne la coltivazione. Ci sono un sacco di polemiche intorno a questa roba, però... Soprattutto di questi tempi. Però, insomma, dichiariamoci che bisogna stare attenti alle cose, ma è veramente eccessivo, insomma, questo terrorismo che sta dilagando ogni tanto sulla... questo tipo di attività. Assolutamente. Allora, indipendentemente dal fatto che il sequenziamento dei genomi ha una storia diversa rispetto a quelle che può essere l'ingegneria genetica e quindi la trasformazione genetica, perché potrebbe non essere utile in questo caso, ma fermo restando che voglio dire, è una tecnologia innovativa come tutte quante le altre, pertanto è assolutamente necessario sfatare il mito che questa tecnologia, l'ingegneria genetica, sia faccia male. Ma al di là di questo, voglio dire, il sequenziamento dei genomi può bypassare, perché diventa poi una tecnologia anche vecchia, tra virgolette, fra un paio d'anni, tre anni, quando si possono utilizzare nuovi strumenti per poter fare del miglioramento genetico. Quindi il problema è legato al fatto che non è possibile, e lei giustamente diceva che in questi giorni siamo veramente all'assurdo, il fatto di spiantare delle piante solo perché qualcuno ha deciso che queste debbano essere spiantate. No, e soprattutto annullare forse 30 anni di ricerca sovvenzionata dallo Stato. Noi, infatti, stavo appunto dicendo che senza poter avere utilizzato i dati, cioè i dati che per i quali quei cambi erano stati fatti e programmati, proprio per capire se il transgene poteva essere un problema. Quindi praticamente siamo, non lo so come definire questa situazione, insomma, praticamente abbiamo sprecato soldi pubblici. Per 30 anni, sì. Comunque ne parleremo. Ci riferiamo a questi campi della Tuscia che andrebbero distrutti. Sì. Sono stati distrutti. Sì. Va bene, grazie Frusciante e davvero in bocca al lupo e complimenti per la copertina di Nature. Grazie. Stasera il quiz ve lo faccio io. Pronti con gli SMS? Via! La domanda è semplice. Chi sono i Sifaka? Una razza di gatti, ci scriverete gatti. Una specie di lemuri e ci scriverete lemuri. Una specie di procioni, ci scriverete procioni. Al solito numero di SMS 349-238-6666 e il libro in palio questa settimana è Il sé viene dalla mente, la costruzione del cervello cosciente di Antonio Damasio, edizione Adelphi. La risposta la sentirete tra poco. Per parlare di risparmio energetico si può praticamente affrontare qualunque tipo di area e argomento, ma ce n'è una veramente singolare di cui parliamo oggi, che è la telefonia, la comunicazione. La telefonia mobile in particolare, quindi la comunicazione con i cellulari. E si può risparmiare energia in una maniera tutto sommato semplice, insomma. Questo ci vedrai che ci pone un problema non da poco. Chi è il nostro, la nostra ospite? La nostra ospite è Michela Meo, che è professore associato di telecomunicazioni al Politecnico di Torino. Buonasera. Buonasera. Michela Meo, che ha condotto una ricerca, anzi che sta tuttora conducendo una ricerca in questo campo, cioè su come sarebbe possibile, condividendo le antenne di fatto, risparmiare energia, perché non sempre tutta la copertura, la capacità di queste antenne per la telefonia mobile è necessaria, perché per esempio di notte si parla di meno che di giorno, ma ce lo spieghi lei. Sì, in effetti negli ultimi anni ci sono stati diversi studi che hanno evidenziato che le reti di telecomunicazioni consumano delle quantità di energia veramente consistente, e questo è vero soprattutto per le reti cellulari. Giusto per darvi un'idea del perché è vero soprattutto per le reti cellulari, voi dovete pensare che per realizzare una rete cellulare l'operatore ha bisogno di disporre sul territorio un numero molto elevato di dispositivi che vengono chiamati stazione radiobase, che sono di fatto le antenne che lei citava prima, combinate con dei dispositivi, come dire, un pochino più intelligenti a monte dell'antenna, che permettono appunto di comunicare con la rete fissa che sta a monte. Questi dispositivi sono dei dispositivi che consumano delle quantità di energia abbastanza consistente. Per darvi un'idea, ognuno di questi dispositivi, di queste stazioni radiobase, consuma qualcosa tra un kilowatt e due kilowatt a seconda della tecnologia, del modello. E tra l'altro consumano non tanto per la potenza che serve per la comunicazione effettivamente, ma per il, diciamo, il controllo del sistema. Sono come dei piccoli computer che gestiscono la rete. Esatto. Perché poi la potenza vera e propria emessa sul segnale radio, quella che noi riceviamo con il nostro telefono cellulare, è una potenza estremamente piccola per tanti ovvi motivi. In realtà la maggior parte del consumo va proprio a tenere in piedi tutto il dispositivo elettronico che compone. Le macchine praticamente. Esatto. E queste stazioni radiobase sono tante. Per darvi un'idea, in Italia sono un numero che potrebbe essere intorno ai 60.000, tenendo conto dei vari operatori. Quindi sono effettivamente un numero elevato, e sono un numero elevato perché noi dobbiamo coprire interamente il territorio. E non solo, siccome ogni dispositivo ha una capacità che è relativamente limitata in termini di numero di chiamate, di connessione che possono nello stesso momento essere realizzate, lì dove abbiamo tanto traffico, nelle aree urbane per esempio densamente abitate, chiaramente abbiamo bisogno di avere tante di queste stazioni radiobase. E precisiamolo anche, sono in numero così elevato anche perché ogni operatore ha le sue. Esatto, esattamente. Ogni operatore realizza la propria rete, questo noi li chiamiamo la rete di accesso, cioè l'insieme di stazioni radiobase che vengono dislocate sul territorio. Quindi abbiamo, come dire, una ridondanza di questi dispositivi. Che è impressionante. E la cosa interessante a cui faceva riferimento lei prima è che il numero di dispositivi è così elevato perché l'operatore si aspetta che in quelle che noi chiamiamo le reti piccole, lì dove gli utenti hanno maggior bisogno di accedere ai servizi, metà mattina, metà pomeriggio, abbiamo bisogno di tanta capacità, quindi di tanti di questi dispositivi. Devono parlare in tanti contemporaneamente, insomma. Esattamente, per poter parlare in tanti contemporaneamente, come succede nelle ore in cui noi siamo tutti impegnati, attaccati al telefono, alle connessioni dati. Naturalmente però ci sono dei lunghi periodi, per semplificare un po', lei pensi alla notte, ci sono dei lunghi periodi in cui tutta questa capacità in effetti non serve. E il motivo per cui questa capacità, come dire, mi lasci dire, in eccesso durante la notte si traduce in uno spreco di energia è il fatto che questi dispositivi consumano una quantità di energia che è molto marginalmente dipendente da quante telefonate attive abbiamo nello stesso momento. Quindi di notte consumano quasi la stessa quantità di energia che consumano quando hanno tantissime chiamate attive. E questo appunto, come dicevamo prima, è un problema che viene moltiplicato per il numero di operatori che noi abbiamo. Quindi di notte abbiamo tanta capacità e, avendo più operatori nello stesso momento, abbiamo tanta capacità inutile, quindi energia sprecata moltiplicata per quanti operatori noi abbiamo. E quindi la soluzione quale potrebbe essere? Quindi la soluzione potrebbe essere quella di indurre gli operatori a cooperare. E quindi quando c'è poco bisogno di capacità, per esempio di notte, nei momenti di basso traffico, si potrebbe far sì che un operatore spegnesse questa rete di accesso, cioè questo insieme di stazioni radiobase, magari su certe aree con poco traffico, e i propri utenti, per poter accedere al servizio, potrebbero sfruttare il roaming, cioè di fatto sfruttare la tecnologia, le stazioni radiobase che sono state dispiegate dagli altri operatori e che vengono mantenute accese. Tecnologia che c'è già, insomma. Sì, Sì, una tecnologia che c'è già, lei quando va all'estero accede al servizio come lo farebbe dall'Italia, semplicemente che le stazioni radiobase non sono di proprietà dell'operatore che le ha, con cui lei ha sottoscritto il servizio, sono di un operatore del paese in cui lei si trova che offre questo servizio di roaming. Quindi dal punto di vista della tecnologia sarebbe assolutamente fattibile oggi con la tecnologia che noi abbiamo a disposizione. Si potrebbe in qualche modo, come dire, fare sì che cooperando tra di loro gli operatori a turno nei periodi di basso traffico spegnessero la propria rete o parte della propria rete e chiedessero all'operatore, diciamo al proprio competitor, di prendersi in carico del traffico dei propri utenti. È quello che dicevo prima, all'inizio, Alberto, prima o poi questa intelligenza qua cooperativa bisognerà averla, perché così siamo un po' stupidoni, Esattamente. Buttiamo via perché qui qual è il problema? Che poi dopo uno teme che i numeri di telefono uno dell'altro, no? Cioè, passino, transitino. I profili degli utenti. E quella roba lì. Ma ci faccia qualche numero sul risparmio che si potrebbe raggiungere? Allora, la quantità di risparmio dipende fortemente da quelli che noi chiamiamo i profili di traffico. Cioè, noi abbiamo bisogno, per poter applicare questo approccio, abbiamo bisogno che il traffico sia diventato basso così che la capacità sia sufficiente, quindi abbiamo bisogno che, diciamo, tra il traffico dell'ora di picco e il traffico notturno ci sia parecchia differenza e abbiamo bisogno che il periodo notturno sia lungo. Più queste due cose sono vere, maggiori sono i potenziali risparmi che si possono realizzare. Per esempio, in una zona di uffici dove di notte presumibilmente non c'è nessuno, si potrebbe lasciare acceso di giorno e spegnere di notte. Esatto, di notte basta pochissima capacità, giusta in caso che uno abbia veramente bisogno di accedere al servizio, ma basta pochissima capacità, e questo per esempio nelle zone business che lei citava potrebbe applicarsi anche al weekend, no? Sabato e domenica in certe zone praticamente non c'è nessuno. Non c'è nessun bisogno di capacità, no? Quindi quanto effettivamente si risparmia dipende moltissimo da proprio l'area che si sta considerando e quindi i profili di traffico. Però possiamo stimare, giusto per darvi dei numeri, per darvi un'idea, possiamo stimare da risparmi del 15-20% fino nelle zone business a risparmi del 50%, lì dove appunto sabato e domenica teniamo praticamente abbiamo tutto il weekend con pochissimo traffico, periodi notturni molto lunghi e rapporto tra la capacità necessaria all'ora di picco e la capacità nelle ore non di picco estremamente elevati, no? Sono cifre grosse, sono cifre consistenti. Sì, naturalmente questo si applica su queste reti o su porzioni di queste reti, però potrebbero essere dei risparmi considerevoli. Cosa possiamo dire? Lei ha fatto questa ricerca, noi adesso l'abbiamo comunicata. Cosa Speriamo succederà? Che ci vediamo. Qualche dubbio che ci sarà un precipitarsi. Sì, ecco, onestamente anch'io. Però lei il lavoro l'ha fatto, l'ha va bene. E continua a farlo. Grazie Michela Meo e buonasera e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Buonasera. Milano Capitale Nazionale delle Startup, un'iniziativa della Camera di Commercio di Milano. Il convegno di lancio di questo progetto è martedì prossimo, 26 giugno, alla Sala Conferenze di Palazzo Turati. Il titolo Milano Capitale Nazionale Startup è seguito da un punto di domanda, precauzione, perché di questi tempi non è facile mettere in moto le cose, ma l'intenzione è forte, molto forte. Ho chiesto a Bruno Ermolli, presidente di Promos, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano che si occupa di internazionalizzazione delle aziende, gli ho chiesto di spiegarci quali sono i presupposti di questo progetto. Sentiamo. In generale è una risposta allo stato di cose nel quale il nostro paese si trova. E quindi sostanzialmente noi vogliamo far crescere il sistema economico e per far crescere il sistema economico abbiamo bisogno di nascite di nuove piccole imprese o di sviluppare le piccole imprese che diventano medio-grandi. La Camera di Commercio ha questo tipo di impegno per tramite dell'azienda speciale che ho l'onore di rappresentare. E devo dire che cogliendo anche la grande opportunità secolare dell'Expo, evidentemente noi ci stiamo preparando a cogliere il massimo dei risultati da questo Expo, che non è quello di avere soltanto 20 milioni di visitatori, ma è soprattutto quello dell'indotto, cioè tutti questi visitatori insieme ai nostri imprenditori italiani, quante imprese faranno nascere in Italia e facendo in questo caso ricevendo capitali e tecnologie e quante invece imprese faranno nascere all'estero portando tecnologie e capitali. Per fare questo discorso noi abbiamo creato 9 tavoli di consultazione in Camera di Commercio. Sono 9 tavoli che hanno i diversi temi importanti per l'Expo, quindi l'accoglienza e la ricettività, è il caso di un tavolo, le infrastrutture, l'agroalimentare, la salute, il credito, l'arte e la cultura. E poi un tavolo che ci dà grandissima soddisfazione, che è il tavolo dei giovani. Sono gli under 40 che sono stati identificati con una selezione attenta, nel senso che devono aver vissuto almeno 5 anni all'estero e essere qui in Italia, e costoro a questo punto, radunandosi per temi, stanno progettando proprio i progetti che sono diventati dei feasibility study nel giro di un anno, sono stati 80, ma questo è solo uno strumento che Promos mette a disposizione. Un altro strumento è una grandissima banca dati che riguarda tutti i 156 paesi del BIE, che va a indagare su quelli che sono gli andamenti e i comparti di forza e di debolezza di ogni singolo paese, per offrire al nostro piccolo medio imprenditore che vuole internazionalizzarsi la conoscenza diretta e aggiornata degli andamenti dei mercati di suo interesse. La Promos è una levatrice di piccole e medie imprese, e questa levatrice ha scoperto giustamente di non essere l'unica. Ci sono le levatrici delle associazioni di rappresentanza, ci sono le levatrici di altri mondi come i business angels, gli incubatori di impresa, le università, in maniera che tutte queste vogliono sostanzialmente aiutare gli start-up, le nascite di nuove piccole e medie imprese. Allora il 26 le raduniamo tutte, perché siccome si predica ovunque che è necessario fare sistema, noi facciamo sistema dicendo che noi non siamo gli unici al mondo, ma che vogliamo lavorare insieme integrando i sistemi di tutti quelli che ci sono già. Grazie Bruno Armoni. Grazie a lei. Per parlare di tutto quello che ci sta intorno a un appuntamento di questo genere, e tutto quello che ci sta vuol dire un po' tutto il problema dell'innovazione, ho qui con me due ospiti questa sera. Diana Saraceni, buonasera Saraceni. Buonasera Federico. E anche Mauro Odorico. Buonasera. Allora, Diana Saraceni e Mauro Odorico sono dei Venture Capital. Diana Saraceni, qual è la vostra società? Come si chiama? Si chiama 360 Capital Partners, siamo un fondo di investimento europeo. E invece Mauro Odorico? Società che si chiama Fondamenta SGR, e diciamo l'area che io presiedo, che è l'area del Venture Capital, ha un fondo che si chiama TT Venture. TT Venture, va bene. Abbiamo deciso di parlare con voi perché? Perché insomma ci troviamo in un periodo che ormai abbiamo capito è quello più complesso dell'ultimo secolo. Però allo stesso tempo, con queste gravi difficoltà economiche, non bisogna stare fermi, bisogna innovare. Qui c'è tutta una chiamata alle start-up per riuscire a mettersi in campo, a mettersi in gioco sul mercato. Girano pochi soldi, e insomma, com'è che voi vedete, che certamente siete in una posizione molto particolare, perché investite e quindi risentite certamente della crisi, però allo stesso tempo volete investire per sviluppare. Come vedete voi questa situazione? Cominciamo da Diana Saraceni. Federico, il settore dell'innovazione dalla crisi, sai, è toccato molto poco, perlomeno molto meno di tanti altri settori. Quando si parla di nuove tecnologie, quando si parla, diciamo, dell'invenzione del secolo, immaginati una tecnologia che produce energia in maniera molto più efficiente, come tu puoi immaginare, per darti un esempio, è poco soggetto, diciamo, alla crisi o alle dinamiche macroeconomiche. Chiaramente, purché l'economia intorno sia perlomeno stabile, ecco, se si avviluppa e ci troviamo in una situazione di grande recessione, saremo sicuramente attaccati anche noi. Certo. Però per ora investire in innovazione è ancora, se vuoi, una maniera di tenersi lontano dalla crisi. Beh, però, scusa, investire in innovazione vuol dire, certo, sull'idea lo si può fare, però poi ci sono dei rischi da prendere, e lì probabilmente invece le cose sono un po' più complicate. Certo, tant'è che un fondo di venture capital tende a diversificare, perché sa che su ogni singolo investimento, ogni singolo asset, il rischio è piuttosto alto. È chiaro che anche il potenziale upside è relativamente molto importante. Cioè? Cui, beh, su un fondo dove ci sono una ventina di investimenti ce ne sono due o tre, tipicamente le star, che fanno, che rendono 15 volte, 20 volte l'investimento. Tirano la corsa, certo. Esatto. Bisogna stare lì dentro. Odorico, ma non ci sono problemi davvero? Oppure quali sono le cose più, invece, non so, problematiche a cui prestare attenzione? Questo anche parlando alle start-up. Ma certo, allora, beh, innanzitutto, come dire, ripeto un concetto che giustamente Diana ha espresso molto chiaramente, cioè che fortunatamente il settore del venture capital è un settore anticiclico, quindi in un momento di crisi, diciamo, come questo, l'innovazione è un po' la possibilità di fare un po' la parte del leone, perché è una speranza per tutto il settore industriale di, come dire, riuscire ad immaginare, produrre, perché no, portare sul mercato nuovi prodotti che magari possono, come dire, rilanciare un po' l'economia, no? Sì. Questo è alla fine che stiamo parlando. È una filiera sicuramente molto lunga, però ripeto, per noi momenti, per noi in senso per chi lavora nel settore del venture capital, momenti come questi sono purtroppo, però è così, dei momenti positivi dove è possibile individuare delle tecnologie molto interessanti e, perché no, anche ridurre gli investimenti, perché poi in realtà quando, diciamo, le cose vanno molto bene, le stesse cose vengono pagate molto di più, certo, quindi certo. Abbiamo la possibilità da un lato di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione per fare nuovi investimenti e anche, perché no, di selezionare, diciamo, delle tecnologie veramente promettenti, certo. Perché insomma ce n'è una buona produzione soprattutto in Italia. Quindi sicuramente un momento positivo per noi. Chiedo sia a Mauro che a Diana, ci sono tanti settori in cui ci si può muovere facendo innovazione, secondo voi qua nel nostro paese sono tutti uguali oppure c'è qualcosa sulla quale bisognerebbe lavorare di più e c'è un settore in quale si fa troppo? Diana? Allora, i settori del venture capital in cui si muovono gli attori del venture capital sono tre essenzialmente, c'è tutta l'area del digitale in cui convergono le tecnologie legate a internet e dintorni. Poi c'è tutta l'area del healthcare, chiamiamola life science, farmaceutico piuttosto che medical device. E poi c'è la terza area, che è quella delle tecnologie industriali o per l'ambiente, per una semplice energia, acqua e rifiuti. Queste sono le tre aree in generale in cui nel mondo, attorno alle quali si muovono i venture capitalists. In Italia hanno senso di esistere tutte e tre, se vuoi, per motivi diversi. Tutta l'area del digitale è francamente ancora poco sfruttata, cioè ci sono tante opportunità, tanti modelli di business che possono funzionare nel nostro paese che sono già dichiaratamente collaudati, per esempio negli Stati Uniti, per cui è semplicemente l'opportunità di fare dei copycat locali italiani piuttosto che europei. Le altre due aree, che sono quelle delle tecnologie industriali per dell'ambiente e quelle del farmaceutico, godono sicuramente di una base di risorse e di preparazione, se vuoi, su delle tecnologie che hanno i fondamentali nell'elettronica, nella chimica e nella meccanica, che sono tipicamente aree di eccellenza tecnologica del nostro paese e per cui hanno tutti, diciamo, i fondamentali favorevoli per svilupparsi nel nostro paese. Non direi che non ci sono motivi particolari per prediligere un'area piuttosto che un'altra. Mauro? Ma io aggiungerei, sebbene siano chiaramente due settori un po' più di nicchia, ai settori che si dicevano prima, quello che noi chiamiamo un po' settore dell'agrofood, quindi tutto quello del settore della filiera alimentare, dal packaging a, come dire, la gestione del canale, e soprattutto quello che noi abbiamo abbastanza isolato rispetto agli altri settori, che è il settore delle nanotecnologie. Dico questo perché appunto questi due settori, più il settore life science e il settore clean tech, sono i settori dove investe il nostro fondo. Noi abbiamo un po' una strategia abbastanza particolare, nel senso che a differenza di altri fondi non investiamo nei media e nell'ICT, perché investiamo in aziende dove sono presenti dei brevetti, quindi quella che viene definita proprietà intellettuale, perché crediamo che nel mondo dell'industria i brevetti comunque oggi rappresentino un asset rilevante nel valorizzare diciamo un'azienda nella quale noi investiamo, e quindi questi settori, diciamo, sono i settori che più sono orientati alla produzione di brevetti e quindi anche a strategie di licensing piuttosto che modelli di business abbastanza particolari, che fondano parte delle loro possibilità appunto sulla proprietà intellettuale. Se devo così dare una un outlook su quello che dal nostro punto di vista il mercato italiano, perché poi Diana in realtà si muove anche su un contesto più internazionale, quindi ha sicuramente una visibilità superiore alla nostra, però sul mercato italiano devo dire che il settore life science è particolarmente ricco di opportunità, di idee e di innovazione. Questa è la numerosità che noi abbiamo, chiaramente tracciamo poi i deal che ci vengono presentati, e nei 3 anni e mezzo di vita del nostro fondo devo dire che quasi un 40% rientrano nel settore life science, quindi mi viene a dire una presenza consistente di questa filiera in Italia, peraltro molto interessante e con nulla da invidiare a altre start-up anche d'oltreoceano. Grazie Diana Saraceni, grazie Mauro Odorico. Ricordo l'appuntamento martedì prossimo, il 26, dalle 10 alle 13, qui a Milano, alla Sala Conferenze Palazzo Turati, Milano, capitale delle start-up. Grazie Diana e grazie Mauro. Grazie a te Federico. Buonasera. Stiamo entrando in pieno nell'estate, noi parliamo di neve, mi sembra una cosa assolutamente giusta, corretta. Giusto, sì. In parte collegato a questi temporaloni estivi che ci siamo beccati in È queste vero. Settimane. Ecco. Sentiamo allora la domanda del nostro Sebastiano. Desideravo sapere se quando ci sono precipitazioni nevose possono capitare anche tuoni e fulmini come quando ci sono dei temporali. Netta, chiara, come netta e chiara credo che sia la risposta di Luca Mercalli che abbiamo qui con noi. Buonasera Mercalli. Buonasera a voi. Mercalli non ha bisogno forse di presentazioni, comunque meteorologo, climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana. E divulgatore delle cose meteo. Allora, in maniera netta rispondiamo semplicemente sì, è possibilissimo, poi bisogna vedere dove e in quali circostanze. Allora, prendiamo intanto la situazione tipica del temporale che è estiva nei nostri climi, quando abbiamo tuoni e fulmini, in genere siamo nel semestre caldo, si sviluppano quelle grandi nubi a torre, dette cumuliformi, che hanno uno sviluppo verticale e sono quelle che in genere producono con la massima dovizia i fulmini e quindi i tuoni, perché come ingrediente principale del fulmine e dei tuoni abbiamo bisogno di moti verticali dell'aria nell'atmosfera. Quando è che possiamo trovare la neve anche in estate? Molto semplice, in qualsiasi gita in montagna durante l'estate sopra quota attorno ai 2500 metri possiamo trovarci in presenza di temporali con neve. A me è capitato una quantità enorme di volte, temporale, neve, grandine, tuoni e fulmini anche in pieno agosto. Veniamo invece a situazioni un po' meno consuete, e cioè la nevicata classica che tutti noi ricordiamo, la nevicata appunto con tempo relativamente tranquillo della perturbazione invernale, in genere non ha tuoni e fulmini perché mancano queste condizioni di forte dinamica verticale delle correnti, in queste perturbazioni invernali in genere c'è più un lento trasporto orizzontale delle correnti, le nubi arrivano, investono centinaia o centinaia di chilometri di territorio. Però anche qui la risposta è positiva, possono esserci delle situazioni in cui appaiono tuoni e fulmini, quindi possiamo classificare la nevicata come temporalesca, anche potremmo dire embedded, cioè inserita all'interno di una perturbazione tranquilla, quindi non è un vero e proprio temporale, ma possono esserci dei nuclei particolari di ascendenza dovuti a condizioni singolari dell'atmosfera in certe situazioni, possono esserci delle differenze di temperatura molto forte tra l'aria in alta quota, stiamo parlando sempre di freddo in questo caso, è ovvio che dobbiamo avere 0 gradi su tutta la colonna dell'atmosfera, molto diverso quindi dalla situazione estiva, però possono esserci delle fenomeni più modesti, non è un vero e proprio temporale con tuoni e fulmini continui, ma potrebbe esserci un po' di tuono intermittente, poi un periodo relativamente tranquillo, poi di nuovo vediamo un fulmine, insomma meno intensa come attività, e l'abbiamo avuta anche in nevicate in pianura padana, a Milano, Torino, a Pavia. Nel corso degli ultimi 10 anni ci sono stati almeno insomma una manciata di episodi, non me li ricordo tutti a memoria per dirmelo, ma so che me ne sono occupato più volte in questa forma, quindi durante una nevicata tranquilla ogni tanto un colpo di tuono e quindi la caratteristica di nevicata temporalesca anche nel nostro clima del nord Italia invernale. Bene, molto soddisfacente. Quindi più o meno, ma c'è sempre. Non è il fulmine a ciel sereno, ma è il fulmine... A ciel nevoso. Sì. A ciel nevoso. Il nevoso mi piace molto come definizione. Fulmine a ciel nevoso, ma poco consueto, non poco è consueto. Normale, però c'è. Va bene, grazie Mercalli della spiegazione, molto chiara. Direi limpida. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie, buonasera. Buonasera Mercalli. Di solito qui Amebius ci racconta cosa combinano i cebi dai cornetti, quelle piccole prosciime sudamericane di cui abbiamo parlato spesso. Ma stasera ci insegna qualcosa in più sul comportamento dei sifaca. Elisabetta Palagi, buonasera. Ciao, buonasera. Ti diamo del tu perché ormai abbiamo imparato a conoscerti. Ricordiamo per chi non se lo ricordasse che lavori al Museo di Storia Naturale del Territorio dell'Università di Pisa e questa volta ti sei dedicata ai sifaca. Sciogliamo il quesito anche del nostro quiz. Chi sono i sifaca? Dunque, i sifaca sono una specie di lemuri del Madagascar che vivono quasi esclusivamente sugli alberi. Sicuramente diciamo il pubblico avrà imparato a conoscerli, ad amarli per il modo in cui si muovono a terra. Lo fanno raramente, però quando si spostano a terra vengono chiamati i lemuri ballerini perché si spostano a sobbalzi sulle zampe posteriori tenendo le braccia in alto. Sono animaletti della taglia più o meno di un gatto con una lunga coda bianca, la pelliccia è bianca e si nutrono quasi esclusivamente di foglie e germogli. Voi siete andati in Madagascar, che è il loro habitat, sono endemici mi sembra, quindi sono solo sono lì. Endemici del Madagascar e peraltro è quasi impossibile osservarli in cattività perché è una specie difficilissima da tenere in cattività. E quindi siete partiti. Per l'isola dell'Oceano Indiano, sì. E che cosa avete osservato? Dunque, intanto abbiamo avuto l'incredibile fortuna di poter osservare durante la stagione umida, cioè la stagione delle piogge, il periodo, quello che per loro coincide con il periodo degli accoppiamenti e abbiamo visto numerosi accoppiamenti. Un fatto abbastanza raro perché le condizioni durante quella stagione particolare non permettono le osservazioni etologiche degli animali, spesso ci sono cicloni, si allaga completamente la foresta, non è facile seguirli. Qui viene il bello perché sono emerse tantissime cose strane che nessuno per i motivi che abbiamo appena detto aveva osservato prima. Tipo che c'è un giro di maschi che si spostano da un gruppo all'altro, un mesetto prima circa che le femmine diventino fertili e quindi vadano in estro, e quindi c'è un via vai continuo, infatti il nostro gruppo era completamente in cambiamento completo quasi tutti i giorni, tanti individui non si riconoscevano proprio perché c'era un vai e vieni abbastanza spedito. Diciamo che le femmine stanno in gruppo e i maschi vanno e vengono? O... No, ci sono dei gruppi stabili che comprendono sia maschi che femmine, però un mesetto prima che le femmine, come dire, siano pronte per l'accoppiamento, alcuni maschi provenienti dagli altri gruppi tentano di entrare e poi entrano per un periodo fino a che la femmina non diventa fertile in altri gruppi, quindi per assicurare il flusso genico, cioè per mescolare un pochino le acque. Quindi ci sono delle zone più esclusive e delle zone che vengono condivise e in queste zone, ma fino ad arrivare anche al cuore del territorio, insomma questi maschi si spostano approcciando le femmine che stanno per diventare fertili. E lì viene fuori il maschio dominante. E lì viene fuori, lì c'è una contesa che nel sifaca non è che si svolge con gli schiaffoni e botte, ma anche perché la femmina è dominante, quindi è comunque sempre la femmina che sceglie. Ma diciamo la disputa avviene a colpi di petto. In che senso? Nel senso che i maschi che sono vigorosi, in salute, che stanno molto bene, che spesso sono dominanti, sono anche quelli che marcano di più. Che cosa vuol dire che marcano di più? Vuol dire che lasciano dei secreti odorosi nel territorio che vengono prodotti da una ghiandola che sta proprio, una ghiandola impari, cioè ce n'è una sola, che sta proprio a metà del petto. Quindi i maschi che marcano tantissimo hanno dei petti molto scuri. Mentre i maschi, che generalmente sono subordinati, che marcano molto meno, hanno il petto chiaro. Quindi da questo ragionamento dovrebbe venire fuori che insomma il petto scuro è il maschio, diciamo, più vigoroso, più dominante. Esatto, però questo fino a prima del nostro studio era solo un'ipotesi, quindi si pensava che le femmine potessero scegliere in base al petto. Ecco, quello che abbiamo fatto noi è di andare a misurare il numero degli accoppiamenti che effettivamente c'erano tra le femmine e i maschi petto chiaro e i maschi petto scuro. E quello che abbiamo trovato è che i maschi petto scuro hanno la meglio, arrivano prima le femmine e copulano molto di più con esse, cioè c'è un giro di accoppiamenti molto molto più elevato. La prendono quindi di petto? Diciamo, la prendono di petto. No, voi etologi, esatto. Adesso, non per scherzare, però voi etologi questi segnali li chiamate segnali sessuali secondari, perché ovviamente sono, esatto, secondari rispetto alla copula. Esatto, rispetto ai caratteri primari che sono rappresentati dalle gonadi, cioè testicoli per i maschi e ovai per le femmine. Perfetto. Questi caratteri sono i caratteri su cui si basa la scelta sessuale. Quasi sempre sono caratteri onesti, segnali onesti, su cui la scelta sessuale si basa in modo preponderante. Quindi è difficile che una femmina utilizzi un segnale disonesto in questo caso, anche perché ricordiamoci che una femmina di lemure, in particolare il sifata, ma tantissime altre specie, ha un'ovulazione l'anno a disposizione e la recettività della femmina dura pochissime ore, cioè in un anno una femmina di sifaca può accoppiarsi soltanto per circa 72 ore. Non di più. Quindi è veramente fondamentale per la femmina fare la scelta giusta. Giusta, è certo. E questo badge che i maschi hanno sul petto, perché è un po' quello, è un po' come dire il tesserino sanitario nostro, no? Quello che racchiude tutte le nostre informazioni. E in quel microchip, in quel codice barrato, c'è se il maschio è dominante, se è in buona salute, quanto marca, se quindi ha una buona capacità di difendere il territorio e quindi le risorse, e quindi le femmine chiaramente ci puntano. Ecco, succede spesso in natura che ci siano questi caratteri, diciamo, che fanno sì che un maschio sia rappresentato come dominante. Ad esempio mi vengono in mente gli oranghi con le guance, esatto. Ma ad esempio sì, negli umani è un esempio classico, quello degli oranghi è un esempio classico, ecco. E anche negli umani, perché ad esempio ci sono dei lavori interessantissimi dove pare proprio che la scelta sessuale di alcune donne ricada proprio su quei maschi che presentano i petti particolarmente villosi. Ah. Perché la distribuzione del pelo, la quantità di pelo spesso è testosterone dipendente e quindi generalmente un alto livello di testosterone significa un maschio più vigoroso, più in forza, che dà più affidamento. Nel caso e così contrario, è vero anche ecco. Per i maschi, perché anche i maschi basano la loro scelta sul seno e quindi il petto femminile, che deve avere delle certe caratteristiche, come ad esempio sembra che sia particolarmente importante la simmetria sia nella forma che nelle dimensioni. E questo è stato studiato? Sì. Ci sono lavori pubblicati scientificamente validi, direi. Non so perché, ma avevo un sentore, insomma, che fosse così. Comunque. E allora torniamo ai sifaca. Quelli poverini col petto un pochino più chiaro, non è che perdono l'occasione, ma trovano delle vie, degli escamotage, delle vie alternative? Sì, assolutamente. Devono tentare il tutto e per tutto, anche perché se saltano un turno vanno all'anno successivo. Ecco. Allora cosa si sono inventati? Non essendo come dire in possesso di questo badge che riassume tutte le informazioni, perché avrebbero ben poco da indicare e da fornire, cosa fanno? Tentano di monopolizzare le femmine offrendo loro una moneta che per le scimmie in generale è particolarmente valida, che è il grooming. Lo spulciamento. Che è, esatto, quella sorta di toelettatura che però fa stare bene chi viene grumato. Il grooming libera endorfine, quindi l'animale che diciamo lo subisce, tra virgolette, si rilassa moltissimo, quindi è un fattore proprio di benessere ed è funziona infatti come un vero e proprio collante sociale nelle società dei primati. Quindi queste femmine vengono grumate tantissimo da questi maschi petto chiaro, che le grumano molto di più rispetto a quanto fanno i maschi petto scuro, che si aggiudicano gli accoppiamenti proprio utilizzando per il loro badge. Ecco, di necessità virtù. Esatto. Ora, le copule con i maschi petto chiaro ovviamente sono significativamente diverse da quelle dei maschi petto scuro, sono inferiori, però comunque sia abbiamo visto che dei maschi ce la fanno ad arrivare alla femmina e a copulare con lei. Quindi, ecco, quindi... Insomma, diciamo, è una strategia che di necessità virtù, ecco, la riassumerei così, no? Che uno ci prova, investe quello che ha, cioè il tempo e la pazienza e l'energia per poterlo fare, sperando in bene che insomma qualche cosa ne esca. Esatto. Va bene. Più o meno è la storia. Grazie mille Elisabetta, un figurati, buonissimo lavoro e facci sapere quando è che torni in Madagascar. Ma non lo so, spero presto però. Va spero bene. Presto. Allora grazie, ciao. Buon lavoro. Ciao. Buona serata, ciao ciao. Troppo poco tempo per troppe cose da dire. La puntata finisce qui, velocissimi. Ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.